4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici di Quattro Ruote Dintorni, buonasera, bentornati e buon agosto. Una puntata davvero ricca di contenuti, tra l'altro tutti freschi, vuol dire inediti, perché saremo in onda, come già vi avevo detto la scorsa puntata, tutto il mese di agosto e dal prossimo sabato anche con un quarto d'ora in più. Quindi 21 e 45 orario classico, e poi dal prossimo sabato di agosto dall'8 fino al 5 settembre dalle 21 alle 22 facciamo cifra tonda con tanti ospiti e tanti argomenti. Il riferimento è sempre quello: www.radio24.it. Vi segnalo anche la prova di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con la BMW Z4 nuova in Alto Adige, che è pubblicata sia sul nostro sito radio24.it sia su turismoinauto.com. Allora, c'è tutto per iniziare alla grande con Marco Perucca di Quattro Ruote. Caro Marco, buonasera e bentornato. Buonasera Roberto e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ormai gli amici che ci seguono, Marco, lo sanno fin da quando ci ospitavi col microfono, ma lo faremo ancora tante volte in pista con le prove di auto. Tu sei un po' il nostro riferimento per le auto top car, per le più veloci, le più prestazionali. Ti sei un po' specializzato, poi hai la responsabilità della pista a Vairano, insomma ormai la tua esperienza conta davvero su tanti anni in cui hai avuto fra le mani volanti importanti, e questa sera parleremo di Aston Martin, non un Aston Martin qualsiasi, ma un Aston particolare, Marco. Sì, premesso che non ci sono Aston Martin qualsiasi, perché sono anche tutte particolari, che sono auto veramente eccezionali per molti punti di vista. Quella di stasera è particolare perché è la V12 Vantage, che è la versione cattiva della piccola Aston Martin, cioè l'8 cilindri, in cui è stato trapiantato il 12 cilindri delle Aston Martin più grosse. Ecco, questo tanto per dare un nome. Cerchiamo di capire subito che senso ha, tu hai detto, la versione cattiva di quella che ha l'8 cilindri. Perché intanto mettere un 12 cilindri su un'auto del genere? Beh, evidentemente per fare un'auto che fosse ancora, oltre che Gran Turismo, una sportiva vera, con prestazioni eccezionali, fuori dal comune, e però ancora, diciamo, un prezzo d'acquisto per quel genere di automobili concorrenziale, e insomma un'auto estremamente diciamo particolare, sportiva, Gran Turismo, compatta, diciamo categoria Porsche, queste auto di questo genere, ecco. Senti Marco, cerchiamo di capire anche in che periodo arriva un prodotto come questo, ma riferendoci non tanto all'azienda quanto ai suoi prodotti degli ultimi anni, perché ci sono stati periodi storici in cui Aston Martin ha vissuto veramente grande celebrità, anche grazie alle gare, poi grazie a film e al cinema decisamente famosi, uno su tutti, 007, insomma. E oggi che periodo è per Aston Martin e per i suoi prodotti soprattutto? Diciamo che dopo che è stata acquistata dalla Ford, la Aston Martin ha cominciato a poter contare su grossi investimenti, su sinergie di gruppo, e quindi ha sfornato dei prodotti che sono sicuramente molto interessanti. E si è arrivati fino al 2007, hanno costruito un nuovo stabilimento, ormai non è più nuovo, ma insomma è di qualche anno fa, a Gaydon, mettendo, diciamo, non in disuso, ma a poco più di livello di museo, il vecchio stabilimento dove venivano fatte delle Aston Martin degli anni 70 e 80. Sì. E diciamo ha vissuto, direi, il suo anno migliore nel 2007, dove hanno venduto credo qualcosa come più di 7.000 automobili, quando si parla di un'azienda che nel periodo più nero non riusciva a venderne 200-300 all'anno, forse anche meno, insomma. E poi ovviamente anche loro hanno risentito in parte della crisi che sta attraversando il mondo dell'automobile, con un fine 2008 un po' più arrilente e un inizio 2009 un po' più faticoso, però sono prodotti talmente particolari che insomma nel mondo trovano sempre un certo numero di acquirenti. Decisamente, tra l'altro cresciuta molto anche dal punto di vista design, all'ultimo concorso di eleganza Villa d'Este, che si è tenuto a fine aprile anche quest'anno nella cornice meravigliosa di Cernobbio sul lago di Como, ha vinto un premio, c'era la 177, se vuoi ricordare agli ascoltatori che cos'è questa sorta di concept, però in serie limitata, quindi in realtà autoprodotta, ha vinto un premio, dicevo, perché il pubblico l'ha apprezzata più di altri concept. Sì, perché è un'auto di una bellezza straordinaria, come secondo me, a mio modesto parere, lo sono tutte queste ultime Aston Martin, e quella ovviamente è ancora più particolare, in serie limitata, ovviamente costosissima, non so neanche quale sia il prezzo di quell'auto, quindi, ma insomma è un oggetto ovviamente unico di piacere, bella da vedere, immagino anche bella da guidare, insomma, per chi potrà permettersela. Certo, perché si tratta davvero di tanti soldi. A proposito, il 12 cilindri V12 Vantage come se la cava a livello di listini? Ha senso parlare di prezzi su queste auto? Insomma, gli estimatori sono capaci di aprire il portafoglio e preoccuparsi dopo aver pagato di quanto hanno pagato? Beh, insomma, questa, la V12 Vantage, costa 173.000 euro più o meno, quindi siamo vicini a una Ferrari, a una Lamborghini, è un modello evidentemente molto particolare, però adesso vi racconterò, è un'auto che sicuramente merita una quotazione di questo genere. Ecco, cercando di capire perché, allora, che auto è, come si guida e come si comporta, Marco? Allora, la base ovviamente è la V8, che è la piccola Aston Martin, che viene prodotta con un motore a 8 cilindri di 4.700 centimetri cubi, a cui è stato trapiantato, nel vero senso della parola, il V12 della DBS, che è quella, per intenderci, che abbiamo visto anche negli ultimi film di James Bond, dove Daniel Craig l'ha ridotta a mal partito in varie occasioni, no? Sì. Quindi questo V12 che è stato messo nel cofano della V8, ma non è stata una cosa semplice, perché il V12 è più lungo di 30 cm, pesa quasi 100 kg in più, è più alto perché non ha la lubrificazione a carter secco, insomma è stato un bel lavoro di chirurgia, a cui si è aggiunto un lavoro, diciamo, di messa a punto di tutto l'autotelaio per adattarla alle nuove prestazioni e di alleggerimento complessivo della macchina, per cui con largo uso di carbonio, materiali leggeri, leghe leggere d'alluminio e via così, l'auto alla fine pesa solo 50 kg più della V8 da cui deriva, con un bilanciamento più o meno identico, col 49% del peso davanti e il 51% dietro, quindi perfetto per una Gran Turismo sportiva. Senti, il target a cui si rivolge è particolare, è detta questa scelta, oppure è una provocazione riuscita di Aston Martin mettere così tanti cavalli, un motore addirittura 30 cm più lungo, 100 kg più pesante, su un'auto che era stata progettata per contenerne uno più piccolo? Ma direi che entrambe le cose, cioè è sicuramente una provocazione, ma una provocazione perfettamente riuscita, perché l'auto è un'auto gradevole da guidare, velocissima, sì. Gran Turismo, molto più Gran Turismo di altre sue concorrenti, ma con prestazioni eccezionali, devo dire, e a cui si aggiunge questa, la solita, diciamo, linea Aston Martin, in questo caso un po', se vogliamo, involgarita da certe appendici aerodinamiche, le prese d'aria sul cofano, che però sono indispensabili perché altrimenti il 12 cilindri non respira, e l'assetto ovviamente ribassato, allargato, come dicevo, la versione cattiva, veramente cattiva, della V8. Mantiene l'eleganza di sempre, un filo di meno, e però ha un comportamento e prestazioni davvero supercar. Quando si legge nei vostri articoli che, magari non tutte, ma molte supercar oggi sono facilmente guidabili, ci spieghi esattamente, così entriamo nella guida proprio vera e propria, che cosa significhi questo modo di descrivere la guida di una supercar? Perché insomma 12 cilindri ce l'hanno in poche, pochi motori oggi sul mercato hanno 12 cilindri, e guidarli non è mai stato facile per nessuno, eppure sembrano gestibili. Ma dunque, diciamo che il passo decisivo l'ha dato l'elettronica, perché queste auto, quando, diciamo, sono imbrigliate dai sistemi elettronici, che quindi controllano l'erogazione della potenza, quindi il traction control, poi il controllo della stabilità, l'ESP e via così, diventano auto, diciamo, quasi alla portata di tutti. Rimangono sempre le velocità, che crescono e diminuiscono con una facilità straordinaria, e bisogna quindi stare attenti e non trovarsi a velocità a cui non si è abituati, ecco. Decisamente. Però l'elettronica, soprattutto ad esempio su terreni infidi, il bagnato, cose di questo genere, dà una mano, perché se uno esagera un attimo col gas, interviene il controllo della trazione o della stabilità, incominciano ad appeggiare le spie, il motore perde potenza e via così. Però un'altra cosa importantissima invece è il bilanciamento di queste auto. Quello che è riuscito a fare ad esempio Ferrari, Maserati, ma anche benissimo Aston Martin, cercando di portare tutte le masse vicino al baricentro, quindi anche questo Aston Martin ha un motore molto arretrato, un po' meno della Vuoto perché è molto più grosso questo motore, ma insomma il bilanciamento, come dicevo, è praticamente perfetto, 49% davanti e 51% dietro, il cambio in blocco a retrotreno e via così, la macchina è estremamente equilibrata e quindi il buon bilanciamento di tutte le componenti, telaio, sospensioni, freni, che in questo caso sono carboceramici della Brembo, quattro dischi enormi che, di una potenza incredibile, e allora lavorano perfettamente all'unisono, quindi la macchina è anche, diciamo, molto sincera da guidare, correzioni progressive, veloci, rapide, perché è una sportiva, quindi non si comporta come una berlina ma come una sportiva vera, però è sufficientemente prevedibili. Poi c'è anche l'elettronica, insomma, che dà una mano. Decisamente, era stato proprio questo il periodo che ha dato una svolta in realtà alla guida di tante auto. Molto bene, grazie davvero di cuore a Marco Perucca, prestissimo noi ci sentiamo però sabato prossimo per un'altra grande prova, Lamborghini Murciélago super veloce, la più bella, la più grande Lamborghini mai prodotta. Grazie di cuore Marco, beato tu e a prestissimo. Bene, di nuovo arrivederci a tutti e buona serata. Noi ci fermiamo soltanto un attimo e riprendiamo fra poco dopo la pausa. Quattro ruote e dintorni. Bene, dopo aver provato una top gara insieme a Marco Perucca di quattro ruote come l'Aston Martin, bisogna parlare di ciò che tiene incollate anche le top car oppure le utilitarie, ma tutti i mezzi in realtà ruotati all'asfalto, e cioè le gomme. Mai diremo abbastanza l'importanza delle gomme, di quei pochi centimetri quadrati che ci garantiscono sicurezza, non solo a noi, agli occupanti della nostra auto, ma anche a tutte le auto che ci stanno intorno, e se lo fate al contrario vale la pena consigliare per esempio un corretto gonfiaggio, senza parlare poi di consumi ridotti in questo caso rispetto all'avere per esempio una gomma sgonfia. Ma lo faremo insieme al direttore di Assogomma, che ormai conoscete, insieme a Federpneus, è una delle due associazioni di riferimento, Assogomma dei produttori, Federpneus dei rivenditori di pneumatici, e da 5 anni collaborano entrambe con la polizia stradale per realizzare dei controlli intelligenti. In questo caso l'associazione dei produttori Assogomma, diretta da Fabio Bertolotti, ci fa compagnia. Direttore, buonasera. Buonasera. In particolar modo mi piaceva raccontare agli ascoltatori che cosa avete combinato questa volta con la polizia stradale da aprile ad oggi per quanto riguarda non solo gomme, ma gomme di carrelli, caravan, autocaravan e autoveicoli ad uso commerciale, che talvolta ci sfuggono un po', direttore. Ma sì, è una prima iniziativa, non è mai stata condotta in nessuna parte d'Europa, sono stati controllati carrelli delle barche, roulotte, autocaravan, attenzione poi anche alla chiarezza, i caravan, cioè le roulotte, e gli autocaravan, cioè i camper, così come recita il codice della strada, ma anche i van, cioè quelli che un tempo chiamavamo furgoni. E le sorprese sono state tante, soprattutto chiaramente riferite al nostro ambito, cioè ai pneumatici, situazioni di, come sempre purtroppo, di pneumatici lisci in una quantità veramente importante, ma se per le vetture c'è un minimo miglioramento, diciamo che l'anno scorso, sempre nell'ambito della Toscana, perché questo è l'ambito, ma chiaramente non sono state controllate solo le auto toscane, anzi per la prima volta quest'anno sono stati controllati anche mezzi stranieri, e ci sono effettivamente anche degli elementi di novità che fanno pensare. Comunque, a fronte di controlli, abbiamo visto, lo si vede dalle vetture, che se l'anno scorso le percentuali di pneumatici lisci vettura era oltre il 5%, quest'anno si è ridotto al 3-4%, quindi controllare i mezzi fa bene, informare fa bene, però purtroppo dobbiamo registrare che delle centinaia di mezzi esteri stranieri controllati, nessuna aveva pneumatici al di sotto dei limiti di legge, e questo vuol dire che il nessuna. Quindi non abbiamo trovato nemmeno una vettura che fosse in queste condizioni fuori legge. Questo dà da pensare che evidentemente in casa loro questi signori, oltre ad avere maggiore attenzione del mezzo, dei pneumatici in particolare, evidentemente ci sono dei controlli a cui sono sottoposti i mezzi. così. Sì, una cultura proprio, una certo, cultura diversa, anche insomma, della sicurezza, su questo sono d'accordo. Va detto forse però che se andassimo a controllare in Germania o in Olanda, i toscani in questo caso, che si dirigessero gli italiani con la propria auto, forse il controllino lo farebbero. Mi viene da dire che gli stranieri in Toscana pizzicati. Io lo spero, per carità, questo non vuole essere la solita, diciamo, no, canzone certo, stonata, che francamente non mi piace da italiano orgoglioso di esserlo, però purtroppo registriamo una situazione certamente peggiore dei mezzi italiani rispetto a quelli stranieri che sono stati controllati. Poi ci sono delle situazioni veramente, io le definisco stravaganti, e stiamo parlando dei pneumatici, dei carrelli o delle roulotte. Volevo un attimo citare il parco circolante per fare un attimino di ordine per gli ascoltatori, perché se 36 è un numero ormai conosciuto, sono i milioni di autovetture circolanti in Italia, i carrelli sono meno di un milione, si parla di 818.000. Allora, 800.000 sono tutti, ma quelli che poi sono stati esatto, evidentemente analizzati sono quelli destinati, beh, certo, quelli al analizzati, tempo libero, quindi stiamo parlando di qualche centinaio di migliaia di mezzi, quindi un numero di per sé assai ridotto rispetto al panorama dell'auto piuttosto che della moto ci sono 9 milioni di mezzi, di vetture 36 milioni di mezzi, qui stiamo parlando, ecco, però l'ambito del van, cioè l'ambito del furgone, sono 3 milioni e 6, quindi sono sempre comunque un numero importante. Anche in questo segmento abbiamo per la prima volta indagato, abbiamo trovato situazioni veramente non a norma e certamente peggiori rispetto a quelle riscontrate sulle vetture. Decisamente, poi sono 3 milioni e 600 mila, diceva il direttore, van e 600 mila autocaravan, giusto per dare certo, dei riferimenti. Certo, sì, ma questi non sono solo certo, dei riferimenti complessivi. Sì, certo, sì. Però è ovvio, voi parlate di percentuali sul parco circolante controllato, che è ridotto ad alcune centinaia di migliaia, però sarebbe sufficiente fare con buona approssimazione statistica una proiezione su dati importanti. Si parla di quasi milioni di veicoli non in regola. Direttore, una cosa importante, la revisione, non solo pneumatici ma anche sulla revisione abbiamo delle cose da dire. Ma allora, le revisioni sappiamo hanno, diciamo, delle periodicità per le vetture, dopo diciamo l'acquisto 4 anni e poi ogni 2 anni, questo succede per tutti i mezzi. C'è una situazione che abbiamo riscontrato di pneumatici, di mezzi non revisionati su carrelli e su roulotte, addirittura le roulotte 6 su 8 non erano revisionate. Sembra che però in forza di una direttiva che non è stata trascritta correttamente, insomma che comunque ha lasciato qualche dubbio, sembra che questo da un punto di vista giuridico sia per certi versi consentito, anche se è una stranezza tenuto conto del fatto che questi mezzi hanno mediamente, cioè più della metà dei mezzi circolanti di questo tipo hanno un'età superiore ai 10 anni. Sì. Sappiamo quali sono, diciamo, i tempi, cioè i chilometri di percorrenza, che sono assai ridotti, molto spesso vengono, diciamo, utilizzati solo qualche settimana o qualche mese l'anno e lasciati poi, non dico in uno stato d'abbandono perché sarebbe non corretto, ma comunque esposti alle intemperie e quant'altro, senza essere per esempio gonfiati i pneumatici, con un carico che evidentemente certo, poggia sempre su queste 4 certo, o più gomme. Certo. E la situazione chiaramente non è confortante, quindi una situazione anche di non revisioni, che peraltro forse attiene anche a un buco legislativo che credo e spero il legislatore vada a colmare al più presto, perché questi mezzi possono veramente costituire un pericolo per la sicurezza non solo di chi c'è sopra ma anche per gli altri. Decisamente. Parliamo anche di norme e con questo chiudiamo. Ricordiamo che la legge fissa ad 1,6 mm il limite dell'usura del battistrada, vuol dire che, ammesso di riuscire a misurarlo, ma 1,6 mm è il minimo per legge per circolare. Si consiglia in realtà di cambiare la gomma quando già siamo sui 2, su massimo 2, 1,8 mm, mentre una cosa curiosa che pochissimi sanno, direttore, è che il codice della strada prevede che sullo stesso asse, sia anteriore che posteriore, gli pneumatici debbano essere uguali. Beh, Beh, questo senz'altro, i pneumatici sullo stesso asse devono essere omogenei, cioè devono essere assolutamente identici, cioè stessa marca, stesso modello, stesso disegno di battistrada, e anche questo aspetto è stato indagato. Si sono trovate delle situazioni, guarda caso sempre più con toni accentuati sui carrelli. I carrelli sono risultati certamente, al di là delle revisioni, uno dei mezzi più trascurati, e le situazioni di non omogeneità, cioè pneumatici di qualità completamente diverse, di marche completamente diverse, che certamente non consentono una guida sicura. Chiaro. E che sono, possono costituire un pericolo per la sicurezza. Va bene, un grazie particolare al direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti. A presto direttore, buona estate. Grazie a voi, controllate le gomme e buone vacanze. Sempre, mi raccomando, a freddo per chi è montato ad aria, e chi ha l'azoto nelle gomme vada da un gommista a farlo controllare probabilmente prima di un viaggio, anche se l'azoto è più sicuro perché tiene di più, come si dice in gergo. Allora adesso passiamo dalle gomme in realtà agli studi di settore per capire il mercato, verso dove sta andando in quest'estate, ma soprattutto per fare un punto degli ultimi sei mesi. Ci aiuta il direttore del centro studi Fleet & Mobility, lo sentiamo costantemente durante l'anno direi, Pierluigi Del Viscovo. Buonasera direttore. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Partiamo dal primo semestre per parlare di cifre che abbiamo con certezza sotto mano. Ci vuole un po' raccontare, per quanto riguarda il vostro settore, il nostro settore di tutti, come stanno andando le cose, direttore? Dunque, il primo semestre è un semestre che abbiamo archiviato con un mercato almeno a meno 11% come volumi, come vendite di automobili. Ma è un meno 11% fatto di due realtà abbastanza diverse. Ci sono le società, le flotte, i noleggiatori e anche i chilometri zero, che viaggiano a un meno 30-34%, quindi perdono un terzo rispetto all'anno scorso, e mentre invece ci sono i privati, i piccoli clienti, le partite IVA, i professionisti, che viaggiano a un meno 11%, quindi sostanzialmente in linea rispetto al 2008. E questo perché chiaramente i privati approfittano degli incentivi statali alla rottamazione. Quelli di cui abbiamo parlato tanto, in vigore dall'11 febbraio fino a fine anno, ammesso che ce ne sia per tutti, poi il GPL soprattutto e il metano. Direttore, stia lì, ci fermiamo soltanto un attimo e poi le farò la domanda più spinosa, e cioè che cosa succederà secondo lei nel prossimo semestre, che già stiamo vivendo, fino a dicembre, data entro la quale si faranno i giochi di questo strano, un po' pazzo, 2009. A fra poco. Quattro ruote e dintorni. Stiamo ragionando in compagnia del direttore del centro studi Fleet & Mobility, Pierluigi Del Viscovo, su quello che è il mercato 2009 dell'auto. Prima di affrontare il secondo semestre, visto che lui ha dato una cifra, meno 11% complessiva, però poi da scorporare, da analizzare sul primo semestre, volevo chiederle una prima cosa. Dicono tanto che tirino le auto, le city car, le piccole. Direttore, cosa ne dice? Dico di sì, dico ovviamente che le macchine piccole, che sono anche quelle su cui l'incentivo alla rottamazione, che è una cifra fissa, ovviamente pesa molto di più rispetto al prezzo dell'auto, sì, sono quelle che tirano di più. Questo è un segmento, quello delle piccole, delle city car, che addirittura vede una crescita dell'8%, un po' perché è un segmento che porta un trend di crescita da diversi anni, e un po' perché ovviamente è avvantaggiato proprio perché tutti si concentrano a prendere le piccoline. Però c'è una cosa più, e questo c'è una cosa anche più interessante da dire su questo segmento delle piccole, che quando il mercato vende auto piccole rispetto ad auto grandi non è la stessa cosa, perché un mercato come quello del primo semestre che abbiamo appena archiviato è un mercato che in termini di soldi, cioè di giro d'affari, di fatturato, segna un meno 15%, proprio perché se vendono le macchine, ma se vendono macchine piccole, e lei sa bene che qui poi insomma il settore si mantiene sui soldi, non sulle gomme e sulle perché noi facciamo sempre i ragionamenti sui numeri, giustamente numeri di immatricolati, però è chiaro che poi bisognerebbe fare il ragionamento anche sui fatturati. I stipendi si pagano con i fatturati, chiaro, con le gomme. Assolutamente. Visto che ci siamo, sentiamo che cosa ne pensa il mercato dei SUV e dei crossover, tanto bistrattati gli anni scorsi, hanno rialzato la testa o no? Sì, questo è il punto, che si pensava che queste macchine un po' grandi, un po' consumatrici di benzina, un po' così, fossero diciamo quelle più urtate, diciamo più danneggiate dalla crisi dei consumi, e invece non è così. Il settore segna praticamente una stabilità, noi abbiamo un meno 2% tra SUV e crossover rispetto all'anno scorso, e questo è un dato significativo che la dice lunga su come il mercato sia governato comunque dalle preferenze dei consumatori, dai gusti, dalle mode, che assolutamente non sono insindacabile, certo. Così facili diciamo da modificare bruscamente. Insomma, ecco, direttore, quindi chiudiamo un minuto sulla domanda difficile che preannunciavo prima. Che prego. Cosa secondo lei, secondo i vostri studi, ma anche proiezioni precise, sentendo tanti concessionari e distributori italiani, succederà nel prossimo semestre, quindi dal 1 luglio al 31 dicembre 2009? Guardi, io le dico subito, molto sinteticamente, non voglio, leggo le previsioni di altri centri di analisi che si attestano tra il 1.850.000 e 1.900.000 targhe di, insomma, fino alla fine dell'anno per tutto il 2009. Io non voglio rischiare a fare il gioco dei dati e tirare altre cifre. Dico sicuramente che se si riuscirà a fare 1.850, 1.9 sarà un bel risultato, perché oggi gli ordini sono un po' freddi insomma presso le concessionarie, cioè non c'è una grande corsa, insomma il mercato sta tenendo, ha tenuto fino a marzo, fa un po' di fatica, c'è. Il punto secondo me importante invece è un altro, che questa crisi ha messo in luce dei problemi strutturali del mercato automobilistico. È stato giusto tamponare con una soluzione congiunturale, quindi dando l'ennesimo incentivo, l'ennesimo intervento pubblico per non far come dire, crollare del tutto le vendite del mercato, è stato giusto, ma non bisogna però far finta che questa soluzione congiunturale serva a risolvere dei problemi che invece sono strutturali. C'è una domanda di macchine che è inferiore alla capacità produttiva, e ci sono tutta una serie di implicazioni industriali, commerciali e sociali in questo che vanno affrontate. Far finta che è tutto passato, perché se quest'anno si riesce a non avere la tragedia va tutto bene, e allora abbiamo perso un'occasione. Insomma. È chiaro il suo discorso. Ci risentiamo in autunno per capire se ha ragione lei, se le proiezioni... Noi abbiamo, come lei sa, la capitale automobile, che è il convegno diciamo clou nella capitale di questo settore, nel quale faremo proprio il punto su queste questioni industriali e commerciali dell'automobile. Molto bene, grazie davvero al direttore del Centro Studi Fleet e Mobility, Pierluigi Del Viscovo. A presto e buona serata. Presto, buonasera a lei e agli ascoltatori. Buonasera. Cambiamo adesso argomento e ci occupiamo di moto, e più precisamente di caschi, perché sempre ci occupiamo di prodotto motociclistico e anche giustamente con un occhio attenti al mercato, però quasi mai parliamo di caschi se non con le solite raccomandazioni di come si utilizza un casco, che anche oggi peraltro non mancheranno. Abbiamo al telefono Mario Giachino, è il direttore commerciale di Nolan, direttore generale di X-Lite, due marche che fanno parte di un gruppo unico. Allora direttore, buonasera. Buonasera a voi. Senta, noi vorremmo sapere di che cosa sono fatti in realtà i caschi. Abbiamo pensato di chiedere a voi, poi lo faremo anche con alcuni altri competitor, di farci capire che cosa ci mettiamo in testa, perché lo vogliamo sempre più leggero ma anche più resistente. Ecco, la tecnologia che cosa ci dice? Sono un po' questi gli argomenti che le chiedo di sviscerare con noi. Beh, diciamo che oggi il mondo dei caschi motociclistici possiamo dividerlo in due grandi categorie, in funzione del materiale utilizzato per la calotta esterna. Abbiamo i caschi in termoplastico e abbiamo i caschi in fibre composite. Sono prodotti simili perché entrambi hanno la stessa finalità, e cioè di protezione del motociclista in caso di urto, in caso di incidente, ma hanno dei modi di lavorare, diciamo così, di assorbire gli urti completamente diversi. non è che possiamo identificare il migliore, diciamo che lavorano entrambi con la stessa finalità in modo diverso. La calotta esterna quindi la possiamo avere in termoplastico e in fibre composite. Il termoplastico poi è un termine abbastanza generico, sì, perché i materiali possono essere tanti. Sostanzialmente anche qui, per non tediare l'ascoltatore e semplificando al massimo, possiamo dire che da una parte abbiamo il policarbonato e dall'altra invece abbiamo l'ABS. Questi due materiali poi possono anche essere mischiati, diciamo così, per creare dei blend, ma sostanzialmente sono due materiali molto diversi, perché il policarbonato ha delle caratteristiche strutturali di resistenza, soprattutto nelle condizioni più estreme, nelle condizioni di alte o basse temperature, che sono certamente superiori all'ABS. È per questo motivo che la nostra azienda utilizza esclusivamente policarbonato per i propri caschi in materiale termoplastico. Le fibre composite invece sono di tutt'altra origine, perché possiamo avere qui diverse tipologie, diverse stratificazioni. Diciamo che sostanzialmente la calotta in fibre composite è fatta di resina e di tessuti che sono fibre intrecciate, che possono essere di vetro, possono essere di carbonio, possono essere fibre aramidiche. Ecco, il giusto mix tra tutti questi materiali e la resina costituiscono, attraverso un processo abbastanza semplice di stampaggio, quella che è la resistenza strutturale di questa calotta in fibre composite, che, come dicevamo, ha delle caratteristiche diverse rispetto alla calotta in termoplastico o di policarbonato, ma allo stesso modo ha come finalità appunto la protezione. Ma molto spesso però non si parla della calotta interna. Sì, ecco, perché anche quello ha la sua importanza, decisamente. E quella è, direi, fondamentale, direi che ha pari dignità con la nostra calotta esterna. Allora, dia qualche consiglio agli ascoltatori su come scegliere la calotta interna. No, la calotta interna è costruita da tutti i costruttori del mondo, sì, in uno stesso materiale, che è volgarmente detto polistirolo, proprio il polistirolo che noi troviamo in mille applicazioni al di fuori del casco, sì, dagli imballaggi agli isolamenti, eccetera. Ovviamente il polistirolo che usiamo noi costruttori dei caschi è un polistirolo particolare che ha delle caratteristiche di un certo tipo, ma soprattutto ha un processo di stampaggio molto specialistico che combina le densità di questo polistirolo in modo che nei vari punti questo materiale sia in grado appunto di assorbire e di dissipare l'energia senza farla arrivare alla testa del motociclista. È chiaro, a questo serve proprio il casco, quindi in parte la qualità del polistirolo, visto che tutti usano polistirolo, in parte il tipo e la qualità del processo. Due dinamiche, due parametri molto importanti. Vorrei salutare al telefono Riccardo Capacchione, ci fa compagnia da Due Ruote. Caro Riccardo, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Roberto. E bentornato. Un minuto anche con te, insieme a Mario Giacchino del gruppo Nolan, per raccontare agli ascoltatori i due tipi di chiusura fondamentali e quelli che sono preferibili, visto che tutte le piste consigliano, alcune richiedono proprio i vecchi anelli, e il perché. Così diamo qualche consiglio da parte tua, che hai sempre a che fare con i lettori di Due Ruote, su come si utilizza al meglio un casco, Riccardo. Certamente. La chiusura col doppio anello ha un vantaggio che è decisivo rispetto a qualsiasi altro meccanismo, ed è la semplicità. Meno cose ci sono, meno cose si possono rompere e usurare. Oltretutto, la chiusura col doppio anello consente di regolare il cinturino perfettamente ogni volta che si infila il casco. Mi spiego meglio. Nel caso si adotti un sottocasco, ad esempio, che fa spessore, il cinturino consente, il pianello consente di fare la misura perfetta, mentre con un meccanismo a scatto, ad esempio, bisognerebbe intervenire sulla pre-regolazione della lunghezza del cinturino stesso. Oltretutto, in caso di caduta, è dimostrato che il doppio anello ha una resistenza enorme allo strappo, alla trazione, e quindi garantisce che il casco non venga scalzato dalla testa del pilota. Ecco perché la preferenza va proprio verso questo sistema. Senti, da motociclista a tanti motociclisti, anche la visiera è importante. Riccardo, qualche manutenzione, qualche segreto di pilota per quanto riguarda il buon mantenimento della visiera? Allora, innanzitutto sembra una cosa banale, ma è importantissimo tenerla pulita da insetti e altre sporcizie che potrebbe anche rigare il Lexan o il materiale di cui è fatta la visiera. Nel caso si utilizzino visiere, ad esempio, con la parte antiappannante, quella che evita l'appannamento della visiera all'interno, bisogna evitare di lavarla con detergenti o altro, perché okay, si rovina in maniera rapidissima. Molto bene, molto bene. Il tempo a nostra disposizione scade. Naturalmente il consiglio non è solo quello di indossarlo, il casco, come fanno molti, ma anche di allacciarlo, pena la vanifica della sua importanza e della sua utilità. Allora, salutiamo nell'ordine. Abbiamo sentito Mario Giachino, il direttore commerciale di Nolan e direttore generale di X-Lite. Direttore, grazie. Torneremo sui numeri dell'azienda una delle prossime volte, così faremo un'inchiesta sui vari costruttori. Grazie, buona serata. Bene, grazie a voi, buonasera. Grazie anche a Riccardo Capacchione, motociclista prima ancora che giornalista. Caro Riccardo, a prestissimo. Buona serata a tutti, ciao Roberto. Con la loro voce termina anche il nostro programma, che trovate però puntuale sabato prossimo dalle 21 fino alle 22. Durante agosto siamo sempre dalle 9 alle 10 di sera ogni sabato. Giacomo Spunta in regia, Roberto Rasia vi ha parlato al microfono, vi augurano soprattutto una buona guida in sicurezza.